darsi, non lo so. E può darsi. E ti hanno detto anche un gioco, io non lo conosco, ci vuole. Infatti. Ma io già me lo ricordo com'è. Che pare era? E già lo. Il coso CQ è linea. Mi pare linea punto e poi due linee, punto e linea. CQ è quello. Sì. Sottofondo a 1000. Va bene, Lo vado a controllare allora. Sì, però tu un barone sotto il fondo sta portando, eh. Come ne frega, sono in container. No, non sono accorto. La posso uscire benissimo come radio, perfetta. Ehi, dammi 2 minuti che faccio un'altra soldatura. Sì, no, come radio, perfetto, non può tutto bene, ti sento benissimo, segnale buono, non c'è problema. Oh, c'è un po' di azione oggi, eh. Ehi, aspetta che sta scaldando il soldatore. Lo fa ancora. Ho capito, dai, non è lavoro che devo fare io. Se lo fa parecchio pure. No, adesso non l'ha fatto. Adesso non va più. Va bene. Andare, adesso lo chiudo e vediamo cosa fa con l'altra radio, dai. Vado dentro casa, prima lo chiudo. Se hai tempo di aspettare, sennò fai come vuoi, Ma tanto lì, sono in testa del parcheggiato, non ho problemi. Però mi serve qualche minuto, devo chiuderlo e poi lo piazzo un altro baracchino se trovo il connettore, dai. Fai, tanto lì da acceso, esatto, dai. Vediamo se qua fa, dai. Qui funziona bene, sì. Vabbè, non è quello. Adesso provo ad attaccarlo, aspetta un attimino. Quello, quello potete silenzioso, perfetto. Ok, e te? Non sta mandando? Di radio no. Di radio non sta uscendo di radio. Ah, di radio non sta uscendo. L'importante è invece sì. L'importante è perfetta. È come la tua classica. Vabbè, muccolo. Ciao, fra. Stavo provando il microfono, ma non va. Ormai non va. Adesso ho capito, ma è proprio per collegare la massa. Insomma, l'ho fatto. Con il Seat stava cracchiando. E qua non stava uscendo i radio. Sicuramente sono le... Sì, se non esce la connessione non è giusta. Io ce l'avevo sul link che buca, insomma, ecco. Però usciva anche molto molto bene. Poi si è fasciato lo video e l'ho tolto, ma se l'ha fatto. Tieni conto che è un po' di tempo fermo e quindi vuole pulito, vuole lubrificato, vuole fatto. Mettetelo a posto bene. Ciao Cristian. Datemi un minuto e lo collego all'Intec, dai. Le connessioni devono essere precise. E io sono qua, dai. Meglio, prova a collegarlo perché mi pare che le connessioni erano quelle buone, se non mi ricordo comunque. Ciao Cristian, ti ho salutato. Mi senti? Ma sono Cristian. C'è una che ti sta sovramodulando. Non ho capito se propagazione. Come sono portante pure io, muta. Cosa c'è una portante? C'è una portante, quando sono sganciato c'è una portante sotto. No, ero io, va di portante, dai. E allora le connessioni non sono giuste. Tiro la schiacciarmi, tiro, dai, tu ci riesci ancora. No, ho collegato il microfono, pensavo che andava bene con l'Intec, invece va importante. E allora le connessioni non sono giuste, sì. Lo so, infatti vorrà controllato più con calma. Aspetta un attimino. È giusto il suo segnale? Sì, perfetto il tuo segnale, alla grande. Niente, vuole... la massa ora va bene, l'ho collegata, va bene, vuole solo cercare le connessioni. Sì, infatti le connessioni è per una radio, lasciarlo su una radio. Ti assicuro che va bene, perché ripeto, io lo stavo usando col Galaxy e andava bene. Poi l'ho messo da parte e basta, capito? C'ho anche un Savelta Master Plus lo stesso, fili non ce n'è staccati mi pare lì, però anche quello è da controllare, quello esce molto bene. Guarda, lo voglio mettere nel Presidente Lincoln perché ho quello al mare, esce male, a me non lo so, Vedi un po', comunque chi si è messo a posto, quello era un bel microfono, perché funziona molto bene, c'è una buona capsula. Gappa gappa. Io non so se la propagazione su tu, io figurati tu. C'è un bel propagazione, non so, devo... faccio fatica. Ragazzi, io faccio quei venti che vorrei fare la papa a mia Paola, dai. No, non stiamo andando, no. È importante solo l'audio, vero? Sì, sì, sono importante. Sì, le connessioni non sono quelle. Andare, va bene, dai. Devo perdere un po' di tempo e adesso non è il momento, va. Sì, con calma te lo fai, sì. Chiamare il radio, chiamare il microfono, non avevi un problema. Quello con calma lo prendi e fai bene le connessioni, e dai una bella pulita, un antisolante, e poi lo colleghi, capito? Sì, sì, avevo già un po' pulito all'interno, però non avevo la corrente giusta, quindi l'ho fatto un po' con l'alcol, con lo spazzolino a 20, l'ho raschiato un pochino, l'ho asciugato, l'ho soffiato, insomma. Ia, va bene che va bene, dai, non ci sono problemi, già si può fare tutto, no, basta avere un po' di calma, pazienza, e no, ia, andiamo. No, devo uscire fuori perché mi sta girando una cosa, c'è che cade. Sto rompendo da fare genesi. Sta lavorando forte in questo periodo la motonave. Quando c'è bisogna farla partire. Caparello, va bene, noi siamo laggiù, ad esempio, la fai girare. L'aria andrò a prenderla io, verso le 4, le 5, questa mattina alle 6 che ci è uscita. Va bene. Ma a lavoro? Allora, aperto alle 7 la Gialbatto. Quella mi è puntita perché non gli ha detto nessuno che c'era la manifestazione delle macchine in Piazza d'Italia. Alle 8 ho iniziato a entrare in centro al bar a fare colazione. Danni disintegrati. Meglio così, vuol dire che un minimo di guadagno c'è, no? Sì, auguro. No, grazie a Dio sto lavorando. Grazie a Dio non si può lamentare, assolutamente. Però a volte, capito, si trova impreparata perché nessuno gli dice niente, alcuni avvisano che c'è questa manifestazione. E invece alle 8 iniziate a arrivare gente al bar e in quel momento lì ne stava facendo altro, non era preparata. Comunque già si sono organizzati, non c'è problema. Voglio dire, non è che è da sola, quindi. Dalle 7 alle 8 sì, alle 8 arrivano gli altri, l'apertura la faccio lì. Oggi sono in 4, figurati in 3 stamattina e 3 stasera. Però lei rimane al banco e cassa, fa lei, capito? Gli altri servono ai tavolini. Ah, mica ha trovato, aspetta un attimino, che ho trovato un altro tipo di connessione, aspetta. Prova. No, non sta andando, mi hai risposto, quindi. No, portante solo. Quindi la portante ce l'hai, manca la modulazione lì. No, siccome ho dei cavetti che non ha fatto Antonio, per quale tipologia di radio, capito? Quindi questo per dire lo devi utilizzare con il G5, con 4 attacchi, però con una portata differente, capito? Con le connessioni girate. Sempre a 4, farlo, sempre a 4. Scusa che avevo sbagliato, MC60 stavo andando sul 140, non ci sto andando col 430. devi prima fare le connessioni, provarlo e poi ci si vedrà com'è. Sì. Ti chiamo a 4 minuti, dai, non è tempo di uscire. E io? No, niente, dai, tentativo sbagliato. Cosa? Ho detto niente, tentativo sbagliato, non va bene neanche qua. Boh, aspetta un attimino, rifaccio. Vedi, già qua si sente rumore di inverso. Ma di radio non va, vero? No, di radio ce ne innesco, però insomma bisogna provarlo, bisogna fare le connessioni giuste, alla radio che la devi usare. Deia, è bella, rientro a casa. Sì, va bene, dai, vuole fatto con calma, vuole controllato. Infatti, dai giusto, presto non ve ne è. Non ce n'è fretta, capito? E comunque ti ho detto che c'è anche un salvezza. Quindi cavi staccati non ce n'è, però è da controllare e vedere un po' se le connessioni sono giuste. Le connessioni sono a 4 del Galaxy Saturn Echo, quindi dovrebbe essere più o meno fattibile. Mentre quello lì invece era, no, non era Intec, era dell'Elbex. Lo stavo usando con l'Elbex. Ah, no, un attimo, no. Allora, se ha le stesse connessioni del Milan, allora va bene. No, è al contrario. E cambi due fili solo, li inverti, sì, ho capito. Infatti c'è il DTT ma non c'è la modulazione, capito? Cos'è, sempre così c'è da tavolo? Sì, è flessibile. Io non conosco il Saletta Master Plus, quello che c'ha il BIP anche, c'ha il tastino del BIP. Ah, ho capito, quello era flessibile, mi hai detto. E io, quello sì. E vediamo, dai, qua. Vediamo, non è così momento, non mi interessa, ricordo che va bene. Non mi interessa l'estetica, non mi interessa, non lo sai, l'importante è che poi la radio spinga, va bene. Yeah, va bene, Saletta è il migliore che c'è come microfono per i baracchini, funziona molto bene, io lo usavo col Galaxy, quante volte mai sentito, lui l'ho messo alle mie BP5 e lui l'ho messo apposta, capito, comunque. Se non avevo un microfono, non ti preoccupare, inizia a lavorare su quello, poi fammi sapere. Con la calma, la virtù ci ottiene tutto, adesso... sera se mi trovo a calmo, tranquillo, lo apro e faccio le connessioni, tanto che ci vuole poco, è che ci manca la voglia, quando rientri sei sempre insomma un po' stanco, quindi ho visto che sta già suonando la parte di sopra, Non l'hai vista? La parte di sopra sta già suonando, quindi per un po' è ora di togliergli quel ferro che ha, poverino, sta soffrendo. Porca miseria, ma anche infilzato l'hai come l'altra volta. Quando hai infilzato le verità, croccante. Ma che? Che bella cosa quel gioiello, quello bisogna che lo prendo anche io, vabbè, non ha già. La dimistichezza tua facendo quelle cose lì, però piano piano già imparo anche io. Ti dico due o tre trucchetti che non sbagli. Allora, c'è problema. Va bene. Ok, dai, che ore sono? Ehi, già l'una, dai. Vado anche io, ecco perché c'è qui a mezzo del ballo, questo vuole mangiare, dai. Vado a dare a mangiare il cane e poi vediamo cosa c'è pronto per me per Anna. Così poi mi riposo un pochino e alle 4 vado a prendere l'aria, là. Ci sentiamo stasera, ti. Eia, va bene, dai, anche io sono, vado a preparo e niente, poi dai, ci torniamo, va, ok, a più tardi, ciao. Eia, ci sentiamo più tardi, ciao. Somebody's turned the ears up on it, and they turned them up a little bit high, so it'll gain back a little bit. You don't have so much noise, and you'll be all right. Yeah, them Cobras, good radio. Yeah, well, I'll be quiet. Good morning again. Yeah, well, I got this radio out in Buckskin 2 or 3 years ago, too. It's a Galaxy base station. Yeah, well, this open up now. Okay. Well, listen, I'll be quiet then. Good morning to you. No, I've been sitting over here in the corner hooked up. All I do is flip a switch, and it'll be in line. Hang on, just being, well, you just getting it. I'll hunt you up here in a minute. Hello, man. I'm on from Carbide years ago. I'm a Galaxy 33. I believe you sold to me for $75 or $80. That's for me. I'm a security guard. Could have been. I can't remember from day to day. But anyhow, that's a good old radio. I got four, five, what's up over here? Yeah, I've got five. I got a switch box from Coleman. This is for radios and, you know, hooked to one antenna right in the center. Well, I'm going on with that now, but anyhow. I'll get off on the side. I appreciate you. God bless every one of you. I know superstar.